faci, fatta soi. Voglio sapere tutto, e che tu fai, a onde vai e come ti senti. Un cuore imbriacato a menti, funziona sempre quello che tu credi. Un sogno che tu segui lo puoi realizzare. Apri il microfono e comincia a sparare. Un salto lungo e metro, un treno in corso sospeso. Mi piacerebbe essere libero, questo non lo nego. Le male lingue non sentirle mai. Viaggia quel che credi e non ti pentirai. A buon intenditor poche parole, ritmica, melodica che viene al cuore. Poche parole non fanno male, una guerra non fa scoppiare. Io dico quello che io penso, ballatista, ritmica, melodica, libera. Azione storica, la soluzione logica, ritmo indelebile, sceso nella pelle. Ah ah ah, qui non ci sono star, un cuore frate e basta, l'armata che ti avanza allora. Ah ah ah, qui non ci sono star, un cuore frate e basta, liberazione avanza. Ah ah ah, qui non ci sono star, un cuore frate e basta, l'armata che ti avanza allora. Ah ah ah, qui non ci sono star, un cuore frate e basta, liberazione avanza. Senti, un cuore che non faccio commenti, non parla, non guarda, non senti. Scandali al sole, il ritmo è tropicale. Andiamo tutti a mare a prendere il sole. Modello specia, tutto turba grafica. Madonna com'è volata sta giornata. Stai rialzata al massimo e sguardi storti pessimo. Improvvisazione, questo è il mio mestiere. Apri il microfono e fammi un po' sentire. Comodo senti, accenti, non parla e non faccio commenti. A Satana tu cuore c'è, ma tu a mente stabili. Un solo come brucia, un mare quando non sogno sotto. Cano mori, un coraggio giovi. Cano mori, un coraggio giovi. Cano mori, un coraggio giovi. Cano mori, un coraggio giovi. Qui non ci sono star, un cuore frate e basta, l'armata che ti avanza allora. Ah ah ah, qui non ci sono star, un cuore frate e basta, liberazione avanza. Ah ah ah, qui non ci sono star, un cuore frate e basta, l'armata che ti avanza allora. Ah ah ah, qui non ci sono star, un cuore frate e basta, liberazione avanza. Imperativo e massimo è la regola del gioco, e di non fare mai bastardo. Salta il treno in corsa e nel cuore è una scossa. Comuto sento un cuore che ti piana e agenti, non guarda netti. Non aspettare a nudo, non lo scorso che ti picchia. Zita che ti aspetta, una pizza fish and fresh a terra se ci metta. Aspetta. Qui non ci sono star, un cuore frate e basta, l'armata che ti avanza allora. Ah ah ah, qui non ci sono star, un cuore frate e basta, liberazione avanza. Ah ah ah, qui non ci sono star, un cuore frate e basta, l'armata che ti avanza allora. Ah ah ah, qui non ci sono star, un cuore frate e basta, liberazione avanza.